Dopo il passaggio di ieri in piazza Tiananmen, la fiaccola olimpica è arrivata oggi alla Grande Muraglia, a 50 km da Pechino, dove domani si apriranno le prime Olimpiadi in terra cinese. La fiaccola è stata accolta da centinaia di persone in festa. Ma a giochi non ancora iniziati, ieri l'ultima contestazione a Pechino, quando quattro attivisti stranieri, due americani e due britannici, beffando 110.000 poliziotti, hanno issato degli striscioni inneggianti alla libertà del Tibet nei pressi dello stadio olimpico e sono stati subito arrestati. Poi la decisione di espellerli dal paese, due subito e due entro 24 ore. Erano invece già stati rilasciati, ma sono stati oggi nuovamente fermati altri tre cittadini americani, tutti attivisti cristiani, che sia ieri che oggi protestavano in piazza Tiananmen contro l'aborto e contro gli abusi in tema di diritti umani da parte del governo cinese. Infine è stato negato il visto d'ingresso ad un ex atleta americano, Joey Chick, medaglia d'oro di pattinaggio alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 ed attivista per il Darfur. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore.